Europa 24. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchesi, questa è Europa 24. Sono giorni decisivi in Europa per la realizzazione dell'unione bancaria. Intanto il Financial Times anticipa gli istituti di credito potrebbero dover accantonare capitali per fronteggiare l'esposizione ai debiti sovrani. Sì, al varo dell'unione bancaria entro aprile, anche se da sola non è sufficiente. Il presidente della BCE Mario Draghi suona la carica ad una settimana dal cruciale vertice europeo che dovrebbe completare il quadro comune per gli istituti di credito. Avverte Draghi, l'unione bancaria non è una panacea per eliminare la frammentazione finanziaria necessaria ma non sufficiente a rompere il legame tra debiti sovrani e banche. Le condizioni di prestito ugualitarie si ristabiliscono solo se proseguono riforme e consolidamento. Il presidente della BCE in audizione all'Europarlamento ha ribadito che i tassi resteranno bassi a lungo e ha aggiunto che negli stress test che la BCE compirà il prossimo anno il debito sovrano sarà testato come ogni altra categoria dei bilanci. Il tutto mentre l'accordo tra Consiglio ed Europa Parlamento fissava al 2016 l'avvio di un quadro europeo comune cui ricorrere in caso di fallimento delle banche. A pagare saranno, secondo il cosiddetto modello Cipro, azionisti, obbligazionisti e titolari di conti sopra i 100.000 euro. Intanto il Financial Times anticipa la BCE potrebbe chiedere agli istituti di credito dell'Eurozona di creare un fondo in cui accantonare i capitali per far fronte all'esposizione verso i titoli di Stato. Un'eventualità che creerebbe parecchi problemi alle banche dei paesi mediterranei imbottitisi nell'ultimo biennio di debito sovrano, grazie anche ai piani di rifinanziamento a lungo termine promossi proprio da Francoforte. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore. Il presidente UE Herman Van Rompuy ha inviato ai leader dei 28 una lettera di invito al vertice europeo della prossima settimana e scrive: completare l'unione bancaria è la nostra prima priorità perché è essenziale per la stabilità del settore finanziario in Europa e la capacità delle banche di prestare, sostiene Van Rompuy. Intanto la Slovenia tira un sospiro di sollievo. Sentiamo perché. Alla Slovenia non servono gli aiuti dell'Unione Europea. Le 8 principali banche slovene avranno bisogno di 4,7 miliardi di euro per essere sufficientemente ricapitalizzate. Una cifra giusto appena inferiore ai 5 miliardi messi assieme dal paese a tutela del suo sistema bancario e superiore alle stime circolate nei giorni scorsi. La cifra è stata fornita dallo stesso governatore della Banca Centrale Slovena, Bostian Jazbec, dopo gli stress test effettuati sulle banche del piccolo paese alpino. Se avesse superato quota 5 miliardi, il governo avrebbe dovuto chiedere aiuto per il sesto salvataggio in Europa. Il paese, in recessione dal 2011, era tra i candidati a un salvataggio. La ricapitalizzazione delle banche farà balzare il debito pubblico sloveno al 75,6% del PIL. Il ministro delle Finanze ha precisato che comunque le tre principali banche dovranno ricapitalizzarsi per 2 miliardi in contanti e 1 miliardo tramite obbligazioni. Bruxelles si è dimostrata cautamente ottimista. Il commissario Olli Rehn ha dichiarato che anche questo è un segno che l'economia europea si sta riprendendo. Valentina Furlanetto, Radio 24, il Sole 24 Ore. In occasione del prossimo Consiglio europeo del 19-20 dicembre a Bruxelles, la Francia ha intenzione di chiedere la creazione di un fondo europeo permanente per finanziare interventi urgenti in paesi in crisi come quello attualmente in corso nella Repubblica Centrafricana. Sono proseguite anche oggi le trattative del governo greco con i rappresentanti della Troica, Fondo Monetario Internazionale, Unione Europea e BCE. Durante l'incontro tra il ministro greco delle Finanze Sturnaras e i rappresentanti della Troica, i tedeschi Moos, Masuk e il danese Thomsen, si è parlato soprattutto dei progressi finora registrati sul fronte delle privatizzazioni. Continua la protesta europeista a Kiev, dove circa 5.000 persone hanno manifestato in piazza Indipendenza contro la decisione del governo ucraino di congelare un accordo di associazione con l'Unione Europea e oggi il presidente Yanukovych cerca di trovare una soluzione politica alla crisi partecipando ad una tavola rotonda con l'ex presidente Kravchuk, alcuni leader religiosi e dei politici. Nuovo incontro oggi a Bruxelles tra i premier serbo Dacic e kosovaro Tači con la mediazione del capo della diplomazia europea Ashton. Il nuovo round di colloqui Belgrado-Pristina sarà centrato sulla giustizia, in particolare sui nuovi tribunali nel nord del Kosovo a maggioranza serba. È tutto per oggi da Daniele Biacchesi, Europa 24. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.